Quarto canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, quarto canto. Ruppemi l'alto sonno nella testa un greve tuono, sì ch'io mi riscossi come persona ch'è per forza desta, e l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fiso riguardai, per conoscer lo loco dov'io fossi. Vero è che in su la proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, che in trono accoglie d'infiniti guai. Oscura e profonda era e nebulosa, tanto che per fissar lo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa. Or discendiam quaggiù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. E io, che del color mi fui accorto, dissi, come verrò se tu paventi, che suoli al mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me, l'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Andiam, che la via lunga ne sospigne. Così si mise e così mi fei entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi, secondo che per ascoltare, non avea pianto mai che di sospiri che l'aura eterna facevan tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri, ch'avean le turbe, che eran molte e grandi, d'infanti e di femmine e di viri. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti son questi che tu vedi? Or vo che sappi, innanzi che più andi, che ei non peccaro, e s'elli hanno mercedi, non basta, perché non ebber battesmo, che è porta della fede che tu credi. E se furon dinanzi al cristianesmo, non adoraron debitamente a Dio, e di questi cotai son io medesmo. Per tai difetti, non per altro rio, semo perduti e sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. Gran duol mi prese al cor quando lo intesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, cominciai io per volere esser certo di quella fede che vince ogni errore. Uscicci mai alcuno o per suo merto o per altrui che poi fosse beato? E quei che intese il mio parlar coverto rispuose: io era nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato. Trasseci l'ombra del primo parente, d'Abel suo figlio, e quella di Noè, di Moisè legista e obbediente, Abraham patriarca e David re, Israel con lo padre e coi suoi nati, e con Rachele, per cui tanto fe, e molti altri, e feceli beati. E vo che sappi che dinanzi a essi spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam l'andar perché dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva, dico, di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno, quand'io vidi un foco che misperio di tenebre vincia. Di lungi n'eravamo ancora un poco, ma sì ch'io non discernessi in parte correvol gente possedea quel loco. O tu ch'onori scienzia e arte, questi chi son ch'hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li disparte? E quelli a me l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazia acquista in ciel che sì li avanza. Intanto voce fu per me udita: onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna ch'era di partita. Poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza avevan né trista né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai tre sì come sire. quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio, satiro, che vene. Ovidio è il terzo, e l'ultimo Lucano. Però che ciascun meco si convene, nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore, e di ciò fanno bene. Così vid'io adunar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto, che sovra gli altri com'aquila vola. Da ch'ebber ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. E più d'onore ancora assai mi fenno, che essi mi fecer della loro schiera, sì ch'io fui sesto tra cotanto senno. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, sì com'era il parlar colà dov'era. Venimmo al piè d'un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura. Per sette porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti v'eran con occhi tardi e gravi, di grandi autorità nei lor sembianti, parlavam rado, con voci soavi. Traemmoci così da l'un de canti, in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Colà diritto, sovra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del veder in me stesso m'essalto. I vidi Elettra con molti compagni, tra quai conobbi Ettor ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni, vidi Camilla e la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re Latino che con Lavinia sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia, e solo, in parte, vidi il Saladino. Poi che innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo mira, tutti onor li fanno. Quivi vid'io Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso li stanno. Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buono accoglitor del quale Dioscoride dico, e vidi Orfeo, Tulio e Lino e Seneca Morale, Euclide Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, Averrois che il gran comento feo. Io non posso ritrar di tutti a pieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta nell'aura che trema, e vegno in parte ove non è che Luca. Fine del quarto canto dell'Inferno.